non c'è il computer. Allora, probabilmente la prossima settimana farò lezione all'università di Chiusa, quindi non solo lunedì, ma certamente anche giovedì, cosiddetto sabato, e forse anche venerdì, ma comunque giovedì sicuramente. Giovedì sicuramente. Sai quale è? Pensi l'ordinamento a cui sono le 002. Erano visto l'impallo se lo sbaglio. No? Allora, adesso ho girato due pagine. E il capitoletto che consideriamo è 1.18, 18 ha come titolo un titolo che mi pare tagliante, malinconia e angoscia. Però prima di arrivare a questo capitoletto vi dico un po' quel che è successo naturalmente nel frattempo. Noi eravamo al ballo, a questo ballo pieno di umori sensuali, che poi naturalmente sembrano ancora più tali evidentemente a Eva. Notate che il marito è stato esentato dal dovere di ballare, quindi rimane, si dice, a un certo momento tutto il tempo lì, i piedi stanco, tra l'altro ricordate che aveva il sottopiede stanco, quindi si vogliono gli davano fastidio ai piedi, mentre la moglie era in uno stato di euforia che si è cresciuto a un certo momento con la presenza del cosiddetto visconte. Il fatto che non si dica nulla di più preciso riguardo al visconte sta a significare qualcosa di importante, cioè che quando una donna attende l'amore, che questo amore si chiami visconte oppure si chiami marchese o idraulico, poco importa, insomma, no? È un qualcuno che tu attendi, per cui questo visconte, questa parola che sente, che tra l'altro di un ballerino provetto, la incanta, la stessa parola. E Emma è una donna che vive di mitologie, vive di mitologie e di illusioni. E c'è questo ballo che è una straordinaria mimesi del rapporto sessuale, con le gambe che si incrociano, ma mi è sembrato tra i più significativi quel verbo che vi parlavo ieri, se non sbaglio, è raflè, che vuol dire scalfire, perché è come se, dice lui, la gonna, se non ricordo male, scalfisca i pantaloni, proprio c'è un innesto, per così dire, fra le due persone, un innesto che naturalmente è unito poi a questo vorticoso girare che è tipico del ballo, finché lei ha la testa ramversi, ecco la testa ramversi come una donna dopo un orgasmo. Abbiamo già visto questo ramversi altre volte, ma lo vedremo poi in un'occasione totalmente diversa, nella morte di Emma, in cui questa volta ha la testa ramversi, ma per altri motivi evidentemente. Caso vuole che uscendo da questo ballo, tra i piedi ci si trovi nel buio, o il ballo poi è stato un maxi ballo, perché non è solo mica stato lì soltanto la notte, poi dico, la mattina sono andati via, ma anche la nave, i proprietari, che sono stati anche al pranzo del giorno successivo, quindi la notte di che. E Charles era molto seccato del fatto che al pranzo del giorno successivo non si servissero liquori, e ci mancherebbe pure con tutto quello che si saranno bevuti la notte precedente. Dopodiché se ne va, tornano a casa loro, nella modestia della loro casa, ma non senza aver portato con essere un oggetto, un oggettino che hanno trovato tra il zampo e tra il cavallo mentre andavano via. Si tratta di un portasigari di seta verde, che potrebbe essere attribuibile a chiunque, ma tanto funziona il mito, Emma lo attribuisce al visconte. E qui comincia indubbiamente la parte, le pagine più, cominciano le pagine più belle di questo capolavoro. Come leggerle? Dico per Ichines che, avendole parlato in un mio libro che si intitola In cerca del mattino, avevo raccontato in questo libro, scritto quindicina di anni fa, avevo parlato di come ero il lettore, cioè il sottoscritto, era abituato a sentire questa scena avendo come sottofondo un concerto di Mozart. Ve lo suggerisco, non mi ha venuto in mente di dirlo, ve lo suggerisco, il K488. Il K488 è un concerto meraviglioso. È un concerto meraviglioso in tre tempi, e il secondo tempo, mentre leggevo queste pagine, a un certo momento rileggevo, perché questo libro, se mi dicessi quando l'ho letto la prima volta, sarebbe qualcosa di molto tragico, insomma, se mi dicessi quando l'ho letto la prima volta. Potrei anche dire, la musica di Mozart, come capita a volte nella lettura, accompagnava con il suo struggimento, nel secondo tempo, l'adagio, accompagnava nel suo struggimento il racconto della solitudine e dell'angoscia di Madame Bovary dopo il ballo della Vaubyessard. Il ballo della Vaubyessard è il momento culminante, è il momento in cui questa donna capisce che cos'è l'amore. E capisce che, e ascoltate bene, capisce che l'amore non è in prima istanza il desiderio di una persona, è amore dell'amore, come dicevano i trovatori, è il bisogno di essere in una situazione amorosa. Ricama con la mente intorno al portasigari di seta verde. È chiaro che il Visconti abita a Parigi, e allora come prima cosa lei si compra una pianta di Parigi e comincia a inventarsi delle commissioni che potrebbe fare in certe strade prestigiose di Parigi. Comincia a pensare dove potrebbe abitare il Visconte. Si fa arrivare riviste per signore, si fa arrivare libri che parlino d'amore, che parlino di passione. Cambia l'arredamento della casa per cercare di renderlo più consono all'amore, perché le sembra che l'amore vero non possa viversi a contatto degli sciatti discorsi serali sulle ricette date ai pazienti di suo marito, che sia qualcosa di più alto, di più sublime. E pian piano, per così dire, si ammala d'amore. E qui Flaubert ha raggiunto il massimo, e credo che sia oggettivamente il massimo della letteratura di ogni tempo, per quanto riguarda la descrizione dell'amore. La pagina qui, vi leggo, dobbiamo leggere adesso un capitoletto, che è probabilmente, ecco, secondo me, il massimo che mai sia stato scritto sull'argomento. Direi che tengo insieme a questo solo Paolo Francesca, ecco. Ah, prima però volevo ancora raccontarvi qualche dettaglio truce e ironico sul rapporto con il marito, nel senso che il marito si stava abbandonando, rilassando, come tutti i mariti. Una delle caratteristiche dei matrimoni è che i mariti e le mogli, ma più i mariti che le mogli, si rilassano, no? Le mogli di meno, no? Mi ricordo mia madre, che non c'è più ormai da 3-4 secoli, diceva che una donna ha molti più lavori, una donna deve lavorare fuori, già allora si lavorava fuori, come il marito, però si deve occupare della famiglia, e il marito spesso non si occupa della famiglia, e terzo, last but not least, deve occuparsi del suo aspetto fisico per piacere sempre al marito. E viceversa non vale, non è che il marito si occupa sempre del suo aspetto fisico per farsi piacere alla moglie, quindi è una fatica tremenda. Una delle abitudini di Charles, qui è l'arte, che tiene fuori la maglietta che ha un bordo rosso. Io non so se qualcuno di voi, dei ragazzi, porta delle magliette, ma qui puoi immaginarti, questi non portano magliette, ma neanche al tempo della neve, guarda quello che lui, ti immagini che le sue magliette, ma non portava neanche gli slip al tempo della neve proprio, La maglietta gliela accomoda dentro la cintura, perché sta fuori è brutto, capito? Rendo l'idea, ha capito? La maglietta, se vuole gliela faccio vedere, io. No, se vuole gliela faccio vedere per esemplificare, è meglio che stia giù, adesso io gli dico anche la mia dove sta, se vuole, che stia giù. E lo faceva, dice Flaubert però, e lui prendeva questo atto come atto di affettuosità nei confronti di lui, no? E perché lei era incazzata, perché lo irritava vedere un uomo che fosse così sciatto, che tenesse la maglietta fuori. Poi il marito, sapete, come passava la giornata, se ne andava. Lei rimaneva sola, e allora leggiamo questo capitolo che inizia con Au fond de son âme, c'est pendant. Ci siamo? No. Come no, adesso ve ne avevo detto girare le pagine. Allora, dal capitolo 9 girate due pagine. Due pagine. Au fond de son âme, c'est pendant, et la pandémie est le même nom. Dal capitolo 9, il numero romano, girate due pagine. Au fond de son âme, c'est pendant, et la pandémie est le même nom. Trovato? No. Non è possibile. Forza! Senti, siamo chiappe in alto, dico sempre in questi casi. Levitate, levitate. Per Dio. Su, testa. Lo scatto di lei. Scatto di lei. Al tramonto del sole, sempre più en el estado para arrivare al mese d'ottobre, pensando che il marchese d'Andervier forse avrebbe dato ancora un ballo alla Odessa. Ma tutto settembre passò senza lettere né visite. Dopo la pena di questa delusione, il suo cuore di nuovo restò vuoto, e allora la serie delle stesse giornate ricominciò. E si sarebbero dunque d'ora in poi seguite in fila, sempre simili, innumerevoli e non apportando nulla. Le altre esistenze, per piatte che fossero, avevano almeno la possibilità di un avvenimento. Un'avventura avrebbe talvolta portato con sé delle peripezie all'infinito e la scena cambiava, ma per lei nulla capitava, Dio l'aveva voluto. L'avvenire era un corridoio nero e che aveva al fondo una porta ben chiusa. Ella abbandonò la musica. Perché suonare? Chi l'avrebbe sentita? E poiché non avrebbe mai potuto, in un abito di velluto a maniche corte, su un piano di Erhard, in un concerto, battere con le sue dita leggere i tasti d'avorio, sentire come una brezza circolare intorno a lei un mormorio d'estasi, non valeva la pena di affaticarsi a studiare. Lasciò nell'armadio i suoi cartoni da disegno e i ricami. A che cosa sarebbe servito? A che cosa? Il cucito le irritava. Ho letto tutto, si diceva. E restava a fare arroventare le pinze del camino a guardare la pioggia cadere. Com'era triste la domenica, quando suonavano i vespri. Ella ascoltava, in un'abitudine attenta, uno a uno i colpi sordi della campana. Qualche gatto sui tetti, camminando lentamente, inarcava il dorso ai raggi pallidi del sole. Il vento, sulla strada maestra, soffiava strisce di polvere. Di lontano, talvolta, un cane urlava. E la campana, a intervalli uguali, continuava il suo suono monotono che si perdeva nella campagna. A proposito, una particolarità stilistica, guardando una particolarità stilistica di Flaubert è quella che costruisce, attenzione, è molto importante, costruisce delle proposizioni, dei brigadi, infatti in questo modo, con proposizioni che sono intervallate da punti e virgola, e poi chiude come una specie di piccola sinfonia, chiude questa serie di proposizioni con un'altra introdotta dalla congiunzione copulativa, introdotta da lei, vedete, perché qui è la campana, no? E questo E ha un valore morbido, musicale e conclusivo. Questa è una caratteristica freudiana che poi noterà molti anni dopo, evidentemente, noterà Proust. Ma vediamo quindi che si tratta. È esattamente come un marinaio che si trova sul mare in bonaccia, quindi la nave non si muove. La nave della mia vita non si muove. E questa considerazione terribile, voi siete molto piccoli, siete tutti inevitabilmente, felicemente e mirabilmente molto piccoli, non sapete bene cosa vuol dire che la nave della propria vita non si muove. E quando non capita nulla è quando il tuo modo di vivere è triste, un giorno dopo l'altro. Allora uno si cerca delle piccole variazioni, il cinema, un viaggio, ma spesso bisogna avere qualcuno per fare un viaggio, per farlo da solo, per la coppia, no? La vita è fatta di queste coppie, fatta di viaggi melanconici organizzati magari con coppie, e noi siamo in coppie, quindi siamo, come dire, un po' di terzi incomodi. è fatta di coppie che si mettono insieme solo allo scopo di fare un viaggio insieme, no? È fatta, per stare ai nostri giorni nella città di Roma, di telefono che non squilla mai, di messaggi, adesso che abbiamo tutti i telefonini, di messaggini che non arrivano, e quando c'è il segnale del messaggino, oh cavolo, meno male, qualcuno magari un messaggio della Tina. Allora, volgeva gli occhi sulla solitudine della sua vita, occhi disperati, e si chiedeva che cosa sarebbe venuto a lei. Dal mare, che cosa sarebbe venuto? Quale vascello? Quale vento avrebbe cambiato la sua esistenza? Niente, capito. E ogni mattina si svegliava spiando la vita, spiando un rumore. Sapete cosa vuol dire una vita in campagna? In cui non c'è un rumore in tutta la giornata, a parte il canto del gallo al mattino, le galline che fanno le uova, ma i pomeriggi. Ma che ne pensate, i pomeriggi d'estate? Le cicale, che Dio le stramaledica, le cicale. Le cicale non finiscono più. Poi, come sapete, le cicale si interrompono tutte in un colpo. E questa è l'unica variazione. E nella solitudine, nel silenzio, si aspetta le cicale, che effettuano una variazione del loro essere. Quando arriva la sera, ho conosciuto nella mia vita molte persone in queste condizioni. Ho conosciuto un amico che andava, non voleva vivere, era un uomo che aveva molti motivi, era un magistrato importantissimo, sposato, con figli, faccio questa piccola variazione per potervi spiegare, e si è scoperto omosessuale, cattolico, una tragedia. Allora, per non vivere, andava a letto sempre prima la sera, le 11, le 10, 9:30, 9. Appena arrivava all'ufficio, cenava, abbandonava i figli, la moglie, tanto che stupido, una volta lui parlò, e mi disse che c'era qualcosa da andare. Si alzava alle 4 del mattino. Quando io chiesi spiegazioni di questo strano modo di dire, diceva così, mi rispose: vivo di meno. Perché alle 4 del mattino nessuno mi sveglia, vado in ufficio per conto mio. Quindi aveva scelto, per non vivere, di cambiare gli orari in cui andare a dormire. E lei, quando va a dormire la sera, è come se dicesse: meno male che un'altra giornata è finita, domani è un altro giorno, aspettiamo quello che capita domani. Ma il domani non sarebbe successo. Quando capita un avvenimento molto bello nella nostra vita, o anche non bello, quell'avvenimento diventa una vita familiare. Quando è morta una persona, c'è un ragionamento terribile che viene da fare. Sono già passati 3 giorni, da 4, è una settimana che... Questo è l'anniversario, il primo anniversario, il mese scorso moriva. E la stessa cosa vale per qualcosa di molto bello, importante, un innamoramento. Tant'è vero che i ragazzi della vostra età, quando si innamorano, cominciano una cosa, c'è tutta una ritualità, specialmente femminile. Sono già 3 settimane, è un mese. E quando lo sventurato, nello stesso caso dei maschi, non si ricorda per nulla, anche con un pensierino da nulla, l'anniversario, lo si ritiene un emblema della pazienza maschile, dice: ah, forse mi sono sbagliato, eccetera. Il tempo passa con una velocità vertiginosa, è già un anno che siamo insieme, sono già 2 anni che siamo insieme, 3 anni, e viene questo passo. E lei, l'avvenimento della sua esistenza, era stata la festa alla Rubiassara. E quindi, ricordava tutto in funzione di quella festa, sono 7 mesi da, 8 mesi da, e aveva l'illusione, nella sua testolina piena d'acqua, aveva l'illusione che quell'invito ci sarebbe venuto. Non vi ho detto perché l'invito c'era stato. L'invito c'era stato perché il marchese Landerlier, proprietario della Bobiensano, aveva avuto un piccolo intervento, ve l'ho detto, che era stato un intervento da nulla. Il marito voleva sdebitarsi, è andato a casa, poi aveva visto che la signora era abbastanza carina, questo aveva agito per lui, invitiamo questa giovane coppia. Allora lei era persuasa che un invito si sarebbe ripetuto. Siccome l'invito era avvenuto in autunno, allora guardava voluttuosamente il passare dei mesi, manca una settimana, illudendosi che l'invito si ripetesse. Naturalmente l'invito non si ripete. Le giornate erano tutte uguali, tutte uguali. E allora guardate questa cosa bellissima, per lei nulla capitava, guardate questa frase, Dio l'aveva voluto. Non è che Emma Bovary, che è una persona che ha una religiosità da campagna, nei suoi tempi, di ragazza stupida, no, quindi non è che sia, aveva l'idea della, che voleva essere sepolta insieme alla madre morta, insomma. Ma insomma non farei il conto della religiosità di Emma Bovary, però sapete, quando la religiosità è così rozza, spesso è fatta di caratteri superstiziosi, no? E allora lei dice, Dio l'ha voluto che io non ami nessun altro, forse questo pensiero nemmeno lo concepisce, che mio marito. Quindi per fortuna non capita niente, per fortuna non ho occasioni di qualcosa di tragico che lei nemmeno osa chiamare adulterio. Per fortuna. Suonava, ragazza ben educata, suonava il pianoforte, però diceva, siccome non potrò mai suonare con un piano era, un piano di grande marca, con un vestito per la toilette per una donna, stavo scrivendo esattamente altre cose, in questi giorni sull'importanza della toilette per una donna. La toilette è un fatto per cui vivere, Tutte e molte donne che ho conosciuto in vita mia mi hanno detto questa frase al momento di uno giorno, al momento di un ricevimento, di un invito. Non so cosa mettere. Io questa frase l'ho sentita, oppure un'altra frase ancora più intrigante. Andiamo da quei tali, ma quello che potrei mettermi l'ho già messo l'altra volta, quindi me l'hanno già visto, com'è bello, no, me l'hanno già visto, non puoi mettere una roba schifosa perché non te l'hanno vista, la toilette è una specie di idolo, assolutamente. Queste deliziose cure femminili fanno entrare nel cuore dell'umanità. Aveva una lieva che si depilava le sopracciglia, però poveretta non era molto depilata, non sapeva depilarsene bene, per cui depilandosi era venuto fuori un'orrida macchia bianca qua sulla sinistra, e dove era venuta all'università con questa cosa spaventosa, Io con imprudenza maschile, ero zezza maschile, perché poi volte su tutti quelli, e dissi, signorina, che cosa ha fatto qui? Era l'ultima cosa che avrei voluto dire, cioè notarlo, dite, perché in quel momento la signorina diventò rossa, aveva un disagio folle, spaventoso, insomma, qui la toilette è fondamentale. Vi ricordate il vestito di Emma lì al ballo, di lana sottile, che era steso sul letto, perché prima di una festa le belle donne stendono il loro vestito sul letto, lo guardano, lo spiano, lo fanno nel rispetto, sono detto lei bisogna per il pianoforte di vestito uccidere? No, mi scoccia. Cosa vuole uccidere? Recamare? Nemmeno. Leggere? Mi sentite la sublime ideologia. Ho letto tutto. Effettivamente lei è la lettrice. Lettura delle giovani signore spesso sono cose costruose che si trovano nelle edicole a tutto tipo. Libri di Harmony, certo Harmony, ricordo perfettamente. Moccio non è tanto per le giovani signore, no? C'è per i ragazzini, no? Volumoni giganteschi, mostruosi che si comprano anche alla standa, alla Ubi, capite, no? Cose tremende, Dan Brown, cose che eccitano la fantasia. Qui devo dire una cosa. Vedremo fra poco una distinzione fra il prossimo all'amante che sta per arrivare di Emma e lei, entrambi letterati. Sapete bene che mettere due letterati insieme che vogliono far l'amore è una miscela esplosiva, è nitroglicerina, perché la prima cosa che faranno è parlare di letteratura. Le più selvagge copulazioni sono avvenute nel segno della letteratura, senza alcun dubbio. Lui però è un poeta, dice: ah, a me piacciono le cose dolci, morbide. Invece la Bovary dice: no, la poesia no, che io voglio invece delle avventure forti che scuotono l'animo, che ti facciano sognare, pensare. Cioè, lei vuole una vita sessualmente maschia, no? Vuole cose di questo genere. E allora dice: ho letto tutto. Cosa avrà letto poi? Per tutte le persone tristi, come sapete, il giorno brutto della settimana qual è? Tutti tristi di questo mondo la domenica è stata peggio. La percentuale di suicidi aumenta. Ci si vede di meno. Anche per la vita di voi giovani universitari, insomma, per quanto sia qui, dietro incontrarsi con compagni, amici, eccetera, alla vostra età, che uno dovrebbe essere autonomo, a volte è costretto a stare in casa, il papà, la mamma, no? Papà e la mamma che dicono ai figli: sei gentile con tutti, solo con i tuoi genitori sei maleducato e trattato. Questa è una delle frasi tipiche, è così o non è così? No? Le palle, anche questa espressione che può sembrare volgare, ma in realtà è molto italiana, non le scale, le palle, i zii, i nonni, i parenti, gli amici che vengono, eccetera. Meno male che sei lunedì e che torno all'università. Per quanto vi siano esami, tutto quanto, eccetera. E guardate che cosa ha davanti a lei. Siamo in campagna, davanti c'è il nastro di strada, la strada maestra, di fondo. Ascoltate bene, questo è un punto sostanziale: su questa strada non arriva nessuno. Nessun marchese torna più a fare un figlio. Nessuno. Il vento dice così. Lei ascoltava in un'ebetudine attenta il ritocco della campana. E vedete, lo riesceva. Quando uno è solo e triste, la sua giornata passa tutti lì in molti momenti in cui si è particolarmente vuoti di testa, particolarmente scemi. Si sta ad ascoltare le cose intorno. Qui siamo in campagna, nell'Ottocento, ma una cosa che può capitare ai nostri giorni è, per esempio, ma fino a qualche anno fa dominava il silenzio delle sere d'estate a Roma, quando tutti erano al mare ancora domenica, alle 8 la sigla del TG1. È una cosa terribile, qualcuno di voi forse la conosce ancora, che era l'unico suono che veniva dalle finestre aperte, per cui questa sigla del TG1 era come palata di terra che davano sulla nostra testa, sostanzialmente. Il vento spingeva la polvere, i gatti nel torpore della campagna, i gatti inarcavano ai raggi del sole inarcando le raggi del sole il loro dorso. Voltate la pagina. E questo è il brano che è stato più considerato, chi l'ha considerato è stato un sommo critico che si chiama Auerbach, che dovreste conoscere, e se l'avete conosciuto potete leggere il suo libro fondamentale, il realismo della letteratura occidentale, che si intitola Mimesis. Il capoverso da cui partire per il capitolo è Mais c'était surtout aux œuvres des repas. Siamo? Come? Due pagine. Volta la pagina, lo trovi da parte. Mais c'était surtout aux œuvres des repas qu'elle n'en pouvait plus. Sì, subito dopo quello che abbiamo detto, volta la pagina, lo trovi. E se te su un primo sono da verità, ci siamo? Bene. Ma era soprattutto, capitoletto numero 19, titolo L'amarezza servita in un piatto. Ma era soprattutto alle ore dei pasti che lei non ne poteva più. In quella piccola sala al pian terreno con la stufa che fumava, la porta che cigolava, i muri che trasudavano, il pavimento umido, tutta l'amarezza dell'esistenza le sembrava servita sul suo piatto e al fumo del bollito salivano dal fondo della sua anima come altrettanti fumi di nausea. Charles era l'unico a mangiare. Lei sgranocchiava qualche nocciola oppure, appoggiata sui gomiti, si divertiva con la punta del coltello a far delle righe sulla tela cerata. Chi vuole imparare a scrivere, impari a memoria questo brano di Ari. Spesso le coppie si incontrano all'ora dei pasti ed è lì che tutto appare terribile. La moglie è costretta a farla mangiare. La cucina che è come una testimonianza vivente, la sala dove si mangia, la saletta dove si mangia, di questa intimità forzata, perché non vorresti mai stare insieme a una persona così sgradevole. Alle ore dei pasti lei non ne poteva più. Guardate la semplicità di questa espressione. In italiano e in francese funzionano allo stesso modo, non ne posso più. In quella piccola sala al pian terreno, piccola, tipo un senso di asfissia, di soffocamento, con la stufa che fumava, con la porta che cigolava, la porta che cigola dall'idea della vecchia casa, dall'idea di una claustrofobia che tutto ciò che è vecchio può dare, aumentare, i muri che trasudavano, certo, per i vapori naturalmente che entravano e si diffondevano nella cucina, il pavimento umido. E allora bastava guardare il piatto, con quello che c'era nel piatto, e lì nel piatto, dice Auerbach, era rappresentato plasticamente il dolore della sua vita. Nel piatto pieno c'era il dolore della sua vita e al fumo del bollito salivano altri bolliti, l'esso che stava cucinando, che stava cuocendo, salivano altrettante fumi di nausea, affadismato della sua vita. Sentite come il matrimonio viene descritto in questa espressione fantastica. Charles era lungo a mangiare. Era lungo mangiare perché è un animale, Charles, sostanzialmente, e quindi rumina. Mi seguite? Rumina, mangia lentamente e lei sogna che il pranzo finisca presto. Ma come si fa se il marito mangia lentamente? La conversazione è nulla al di là delle ricette che ci sono state. E lei che cosa fa? Non può mangiare, le si è chiuso lo stomaco. è piena di rabbia. E il fatto di quel che mangia, perché deve in qualche modo far compagnia al marito, che cosa mangia? Mangia delle nocciole sgranocchiate. Poi sentite la differenza tra il marito che mangia lentamente il suo gigò, il suo cosciotto d'agnello, quello che sia, e lei che sgranocchia con rabbia delle nocciole. Basta dire sgranocchia delle nocciole e voi sentite la differenza tra mangiare normale. In più fa qualcosa che tutti abbiamo fatto da bambini, forse non solo da bambini, per occupare il tempo a tavola quando ci scocciavamo. Se c'era la tela cerata, con il coltello facevamo con ira delle righe. Io mi ricordo che avevo fatto in casa mia da bambino dei disegni meravigliosi. Un giorno mia zia si infuriò enormemente dicendo: ma chi è stato lo sciagurato che ha fatto questi disegni qui? Mia zia è morta da molti anni e non ha mai saputo chi faceva questa vita. I